Nonno, andiamo alla giostra! Nonno, dov'è il nonno? È una ragazza bella di fuori, ma ancora più bella di dentro. Una ragazza dai principi morali solidissimi, mi vuole molto bene e io la ricambio.